Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buona domenica e soprattutto buona vigilia di Natale e soprattutto buon Natale. Poi gli auguri fatti da un Pino al Natale, insomma, valgono, no? Benvenuti, signori miei, a questa nuova puntata di Voice Anatomy. Dopo un'annata con tantissimi ospiti e amici che ci hanno fatto compagnia di domenica in domenica, in queste due ultime puntate del 2017, quella di oggi e quella di domenica prossima, 31 dicembre, abbiamo scelto di riascoltare con voi alcune delle interviste più belle, dei racconti più divertenti, ma anche delle canzoni o delle prove di recitazione che abbiamo registrato qui negli studi di Radio 24 di Roma insieme ai nostri ospiti nel corso dell'anno. Non vi nascondo, signori miei, che quando con gli autori abbiamo iniziato a selezionare le interviste e gli ospiti per queste due puntate speciali, ci siamo resi conto ancora una volta di quanti nomi siano passati qui davanti ai nostri microfoni. Non è stato facile scegliere. Speriamo di essere riusciti a darvi davvero il meglio, o almeno una parte del meglio, degli amici che ci sono venuti a trovare, ovviamente, in questo 2017. Allora cominciamo subito con questo concentrato di Voice Anatomy. Partiamo da Edoardo Vianello e da sua moglie Elfrida. Io sono di Tirana, Albania, sì. E conoscevo le canzoni di Edoardo, conoscevo Abbronzatissima, Guarda come dono, ma non sapevo chi era il cantante. E se quando cercato. Ha visto l'interprete lì è impazzito. E che succede? Ci siamo conosciuti alla sala d'attesa di un dentista. Come la sala d'attesa di un dentista? Pensavo che fossi andato a vedere un concerto. Sala d'attesa di un dentista, no. Dove il nostro amico comune dentista ci fa conoscere e dice: ah, ma lui è Edoardo Vianello. Ma chi è Edoardo Vianello? Perché per me esiste Abbronzatissima, certo. Esiste. Ma lo sapevi non... chi cantava, però? Ma no. No, non lo sapevo perché secondo perché me. Sono canzoni che stanno nell'aria. Le canzoni, diciamo, sono più famose di lui. Cioè, certo. I titoli delle canzoni sono più famosi di lui. Hai capito? E poi, qui, fammi un titolo, perché lui è il re Mida dell'estate. Re Mida dell'estate. Ci sta, è vero. E poi no, ma questo qua non è solo l'estate. Sì, l'estate è il suo core business, come si dice qui a Radio 24. Ma il fatto che tu, quando le senti, se splende il sole pure in discoteca, è un altro discorso. Anzi, le senti pure l'estate, l'inverno, l'autunno. Anzi. Abbiamo anche sul cocuzzolo della montagna, non certo. Dimentichiamo. Ma chi non fa la presentatrice? Ma cadè, cioè, abbiamo sul cocuzzolo della montagna. Sta insieme a Guarda come Tondolo. A Guarda come Tondolo. Allora vai con Guarda come Tondolo e sul cocuzzolo della montagna. Eccoli! Sparali! Ballate a casa, vai! Dai! Guarda come tondolo, guarda come tondolo con i twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi incontro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con i twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le mie gambe tremano, twist, twist. E le ginocchia scendono, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con i twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Vedo mille, mille, mille lucciole venirmi incontro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. E le mie gambe tremano, le ginocchia scendono. Forse sono brividi, brividi di un paio di sci sci da Adesso ditemi chi riesce a stare fermo con queste canzoni. Ditemi che generazione è che è. Ma dai, non esiste. L'arrangiamento è veramente. Ma no, è pazzesco. No, no. Ma poi parlavamo di questi record che tu hai. Tu pensa che da un recente, lo saprai, da un recente sondaggio dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la canzone è abbronzatissima e al sesto posto fra le canzoni più cantate dagli italiani all'estero, pensa. Lo so, però me la storpiano. Come fanno? Abbronzatissima. So tragedy so lei. Si sente il telefono che rientra. Devo nel passare. Microfono, Frida. Sto facendo un tweet. Lo so che fai un tweet, ma per radio col microfono. Fai un twist che meglio. E poi i Vatussi, nelle statistiche sia pubblicate dall'Espresso, risulta essere negli ultimi 10 anni tra le 15 canzoni più eseguite in Italia. A maggio 2010, proprio Vianello, tu hai festeggiato la 10.000ª riproduzione della canzone, per questo detieni il Guinness World Record. Yeah. Cioè, beh, perché i Vatussi me la chiedono almeno 2 volte alle serate, avendo fatto più di 5.000 concerti nella mia carriera. Mazzia. Io voglio leggere. Devi quanti anche ne hai fatti? Quanti ne hai fatti? Beh, adesso saremo arrivati a 11.000, insomma. Sì. Dicevi, Frida, no, prima. Dobbiamo aggiornare, perché Guarda come Dondolo. Ma te porti a biografo, non affidavo sì, a moglie. Sì, sì, sì. Guarda come Dondolo entrare nella moglie. Classifica Billboard americana, non sì. Billboard quella latina dove no, no, no. Entrano tutti i vari esatto, Pausini. Esatto, non fare nomi, non fare nomi. No, vabbè, che sono bravi. Giovanotti non lo dire. Perché l'hanno dire. Usato in una fiction americana, dove gli americani sono incuriositi dicendo ma che cos'è questo Guarda come Dondolo? Esatto. E sono andati in milioni a scaricare la canzone, che ma adesso dobbiamo vedere che poi alla gratis fine. Quando scaricano così, ma speriamo almeno un centesimo l'uno. Davvero. Guarda come Dondolo, come in inglese De Angelis, look like within Don, how I did Don. No, no, ma no, la versione originale la mia, perché certo. C'era una scena in questa fiction nella quale ballavano il twist, per 2 minuti si è sentito solo la canzone. Master of None è la fiction. Master of None, famosissimo. Ah, sei tu? Sì, sì, sì, so tutto, perché io so chi me le dice al microfono. Ah, ecco. Tranquillo. No, no, io dico quando le cose non le so, ma ringrazio Dio, sono circondato di persone. Io ho il cervello in outsourcing, per cui ho il cervello fuori di qui, capito? No, ma è vero, succede questo. È una cosa pazzesca, ragazzi, sì. Se pensiamo che è del 62. Sì, insomma. Ci hanno messo 55 anni. Ah, capì che c'è. ma sai, guarda pure il tuo amico Mimmo Modugno, insomma, no? Grande. Cioè, Mister Volare che cammina sulla quinta strada con la gente che butta i coriandoli come se fosse stato chi. E oggi? E oggi uno può dimenticarlo. Spero di no, spero di no. Le persone che devono sapere lo sanno. Ovviamente i ragazzi bisogna istruirli, bisogna sapere, dirgli da dove un veniamo. Un po' più di musica italiana nelle radio, che dici? Ma noi in Italia, veramente, senza nulla togliere agli altri all'estero, ma abbiamo veramente inventato tutto. Tutto quello che c'era da inventare. Sembra che ce lo siamo dimenticati. Perché i francesi devono essere più bravi di noi? Non sono più bravi di perché noi. Perché si tutelano. Si tutelano. C'è una legge, per esempio, nel cinema in Francia: se fanno un film francese, deve rimanere almeno 3 settimane al cinema. In Italia, se non incassi il primo weekend, ti levano il film. Soprattutto deve uscire il 60% di cinema francese, il 40% straniero, il 5% rientra. Anche nelle canzoni c'è una percentuale. Anche nelle radio: il 75% deve essere musica francese. Capito? Non sei, ecco, la parola magica e sono tutelati. Dimmi, Rachele, che cosa stai per mandare in onda? Ah, questa è. Questa è quella originale. No? È sempre il Guarda come Dondolo, versione originale. Certo. Qui c'avevo 22 anni. E questa è tratta dalla fiction americana? No, not down there. And I'm like, oh, yeah. Hai capito? Le spiega come si balla questo. Abbiamo la prova. Bellissimo. Abbiamo la prova. No, ma che noi siamo famosi in tutto il mondo grazie a questi esponenti e ci facciamo con un bel articolo su Billboard in inglese dove dice che Edoardo Ione è la prima volta che entra. Moglie che fa così, lasciala fare. No, scusami, ma queste sono informazioni che la gente deve sapere. Fai finta che non è tua moglie, ma è una giornalista che collabora con me. Sta spiegando e raccontando che cosa è tutto questo, Edoardo. Perché bisogna raccontarti in maniera leggera, perché non si può, cioè, raccontare che vendi 70 milioni. Qua non siamo solo canzonetti, come si dice. No. Vabbè, ma la cosa che mi dà fastidio è che vi sorprendete. No, io no, io siamo amici e ti ho voluto fortemente, meno male che ti ho incontrato. Per me è normalissimo, è ovvio. Ma io vivo con le persone, le donne che svengono per la strada, con questo corpo, io ci convivo, per cui anche per me è normale vivere in questa maniera. Ti capisco, come faccio a biasimarti? Capisco che significa portare in giro una fama del genere, santa miseria. Senti, io invece mi metti una musica dolce, voglio leggere alcuni brani della biografia di Edoardo. Non è, non è un libro, però. Ma chi è scritta questa? No, è scritta, ma che sta su io, i miei autori, eccetera. Però mi piace leggere da dove vieni. Edoardo Vianello nasce a Roma il 24 giugno del 1938. È un cantante, cantautore e attore italiano. Figlio del poeta futurista Alberto Vianello, da bambino inizia a suonare una fisarmonica. Sembra Quark così, che il padre gli aveva regalato a sua sorella, provando ad inventare nuovi motivi. Studente di ragioneria, inizia a suonare la chitarra in alcune orchestre, esibendosi come musicista in qualche locale della sua città. Il debutto come cantante avviene però nel 22 aprile del 1956, quando Edoardo Vianello si presenta in pubblico in occasione di uno spettacolo allestito dagli alunni dell'Istituto di Ragioneria Leonardo da Vinci, dove lo stesso Vianello studiava. È vivo, sta qui, cioè non è un coccodrillo. Al Teatro Olimpio di Roma, che si chiamava ancora Teatro Flaminio, facendo il verso al leggendario gruppo gospel americano Golden Gate Quartet, Edoardo si esibisce insieme ad un quartetto di finti negretti interpretando il brano Gerico. Hai fatto questo? Ma vergogna! La prima volta mi c'è la foto con tutti questi dipinti di faccia in nero. È come, come al Johnson... Il cantante di jazz è una canzone dell'ancora poco conosciuto Domenico Modugno, che ha cantato Musetto, presentata da Gianni Marzocchi al Festival di Sanremo dello stesso anno e resa celebre poi dal quartetto Cedre. Sì. Cioè, ha fatto una vita per altri 15 minuti. Stiamo ancora al 56. Hai capito? Mancano ancora 73 anni. E già, poi ha fatto tanto anche l'attore. Lui ha cominciato di come Valone, attore. Alberto Lionelli, ma sono usciti i libri in Albania. Questa è una stalker, questo ti ha ammirato dall'Albania. È una specializzazione che hanno in Albania, sì, quella di sapere Vianello. Sapere, c'è un libro proprio. Sì. Ma tu sei, io questa cosa non sapevo, sei cugino di Raimondo? Sì, cugino di mio padre. Beh sì, ho capito, siete parenti. Cugino in seconda. Beh vabbè, comunque siete parenti. Nonché zio di quello sconsiderato di Andrea. Ah, è vero. Pensate, no, beh, su Raimondo... Raimondo fortissimo, Raimondo... ti racconto subito una cosa velocissima. Ma che sai, tu non stavi qua? Quando sei il mio primo incontro con Raimondo a Cologno Monzese, certo. Eravamo appena sposati, Edoardo gli dice: Raimondo, ti voglio presentare la mia terza moglie. Ma non è male presentare, se lo faccio io la mia seconda moglie già mi lascia pure in strada. Lui si gira, mi squadra e dice... Hai conosciuto il Vianello sbagliato. Ma era molto simpatico, pure te con ironia, ce n'hai proprio tanta. Mi fai sentire un altro momento musicale del Remita dell'estate, Edoardo Vianello? Scegli quello che prendi bene. Se... solo a ballare dalli galli, adesso siamo in due a ballare dalli galli, e se prima eravamo in due a ballare dalli galli, altro che altri tormentoni. Qua con Migliacci si sono proprio stancati, perché il testo è di Migliacci, questo è bellissimo, guarda che geniale, e se prima eravamo in quattro a ballare dalli galli, adesso con Vianello ce ne andiamo in mezzo al mare, prendiamo in affitto una barca, qua un prendiamo in affitto una barca un'ora soltanto, andiamo a cercare uno scoglio, andiamo a cercare uno scoglio, lì si sta meglio. Andiamo a cercare un bagnino, andiamo a cercare un bagnino, il mare è un canto, facciamoci dare un pattino, facciamoci dare un pattino fino al tramonto. Se prima eravamo in quattro a ballare dalli galli, adesso siamo in cinque a ballare dalli galli. No, veramente abbiamo fatto Capodanno prima qui. Adesso è Natale. Cioè, adesso è Capodanno, cioè sinonimo di tutto. Sono sicuro che se i Vianello avessero cantato in Russia oggi Vladimir Putin sarebbe pure presidente e capitano da Roma, cittadini della Lazio. Ecco l'Italia che non invecchia mai, dice Cosimo. Grande Vianello, grande Vianella, eccetera eccetera. Che bella voce, vabbè, insomma, cose che conosciamo perfettamente. Ne hai saltati un paio, vuol dire che erano... No, erano di altra trasmissione, erano 24, erano le felicità insulti, dei bambini. No, li dico, no, io li leggo. Se tu pensi che il mio primo messaggio che ho ricevuto SMS, ero orgoglioso, contento, la prima trasmissione 3 anni fa, leggo, una signora dice: finalmente Pino Insegno per radio. Lo leggo mentre arrivava, così posso fare le pulizie per casa, visto che l'aspirapolvere no. E te avete la stessa voce. Primo SMS a Radio 24. No. Non te dà uno startup felice di vai, sto facendo la cosa giusta. Però no, io li leggo, anzi, soprattutto quelli che, soprattutto quando la critica poi è, no, puoi dire che Beethoven è migliore di Edoardo Vianello. Come oppure capito? Che era pure sordo, ma santo Dio, è morto pure prima, ma santa miseria. Una stanzetta in affitto è trovata, per momento va bene, siamo gente deborgata, non potemo pagare, da domani comincia il carvario, non c'è altro da fare. Sto calendario e qualcosa cambierà, siamo ricchi di volontà. Eccolo, insieme. Cuore mio, la speranza non costa niente, quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no. Quanti anni ha sta canzone? Questa è del 72. Com'è nata col grande Franco Califano questo rapporto? Vabbè, Franco l'ho conosciuto quando faceva l'attore di fotoromanzi. Ah sì, ma bello era Franco. Nel 64. E era questo ragazzo hai tante grande possibilità. E una sera mi fece sentire una sua poesia, mi lesse una sua poesia. Io rimasi molto sorpreso perché non corrispondeva. No, le sue poesie non corrispondevano. Era una poesia sull'amicizia, molto toccante. Allora gli proposi di provare a scrivere dei testi e lui dopo pochi giorni mi portò proprio un pacchetto. Per cui fu proprio la prima esperienza sua come paroliere. La prima canzone che ha fatto l'ha fatta insieme a me, da molto lontano, nel 1964. Poi siamo diventati amici e nel 69 abbiamo fatto una casa discografica insieme, l'Apollo. Con la quale abbiamo lanciato I Ricchi e Poveri. Niente. E poi quando I Ricchi e Poveri se ne andarono, che vollero la grande casa discografica, io feci I Vianella per controbattere la situazione. Ah, fai così? Lui, allora. E lui scrisse tutti i testi. Intanto gli venne l'idea che noi potevamo cantare in romanesco, che fu la grande trovata. Perché anche questa è una bella innovazione. Certo. Cioè, nel senso, non era una canzone folk o sai, esatto, una bella Madonnina oppure roba. Era la prima volta che si usava il romanesco per raccontare una storia d'amore. Di solito le canzoni romane erano dedicate coltellate a Roma. Sì, a Mazza, Roma, a Mala, sì. E invece mi ha fatto, e quindi lui ci ha scritto questo Siamo Gente del Borgata perché dovevamo andare al disco per l'estate, ed è stato un trionfo, un successo. Sì, dai, voi due insieme veramente. Poi Frida non è gelosa. No, ma i suoi racconti sono che lui, Franco, era quello bello e lui ai tempi era quello famoso e facevano praticamente strage tutti e due insieme. Perché Franco è una persona, mannaggia, guarda, io l'ho conosciuto bene, siamo stati generosissimo, insieme negli ultimi anni generosa. Della sua vita, ci sono stato molto vicino. Poi ha scritto dei testi fantastici, mai banali. Mai. Anche per Mia Martini, insomma, sì. Mi ha raccontato come era andata la storia del minuetto, eccetera, e quell'idea generale di na, di non metterci parole, eccetera. Cioè, non era facile, era veramente un gran poeta. Era un gran poeta. Di grande sensibilità. Poi viveva in maniera, ma sempre dicevo, ho pagato per quello che ho fatto. Non mi ha nascosto niente. Mi dispiace che il suo personaggio ha coperto un po' il suo talento. Sì, è vero che certe volte forse la sua figura così di uomo che vive al limite, eccetera, cioè, superava. Più visto come Franco Califano, viveur, di donne, queste cose qua. Aiutato, però, diciamo che sì, ha creato vero. Un mito intorno a lui. Comunque. Però si è perso Franco, il poeta, perché se vai a leggere le sue cose sono pazzesche. Sì, noi l'abbiamo anche conosciuto, per cui l'abbiamo respirato anche nell'intimità della sua casa, di un pranzetto insieme, eccetera. Però purtroppo non può arrivare tutto a tutti, insomma. No. Cioè, ovviamente, lui magari ha scritto quelle canzoni in momenti di tristezza assoluta, è venuto fuori abbronzatissimo, era in carcere quando ha scritto quelle canzoni. Ma dai! Sì, perché lui era agli arresti domiciliari in una clinica. Ma per cui cosa, era l'unico, l'unico posto dove trovarlo sicuramente. Arresti domiciliari in clinica ha scritto questa roba. Esatto, sì. Ha scritto "Siamo gente borgata", "La festa del Cristo Re", "Tu padre con tua madre". Ha scritto tutto un long plane, il nostro primo long plane. Che mito. Ogni volta andava in clinica, andava a resti domiciliari, faceva insuccesso praticamente. Sì, perché lui era introvabile spesso. Invece sì, c'era, c'era il modo per incastrarlo. Io mi ricordo quando venne a casa mia una volta, portato dai ragazzi della mia un'accademia 10 anni fa, eccetera. E lui arrivò a casa perché era la festa, una festa organizzato carino, è arrivato sotto braccio, lo fa accompagna Marcello, senti tipo, ma di chi è sta casa? Cioè è una casa mia, che ho fatto fra, è mia, ma dai di cacciare che l'ha affittata. Cioè, no, lui aveva un modo di vivere che era pazzesco, cioè, era così, sulle nuvole, no, un po'. Era così, ma faremo una puntata magari su di lui, sì, sì. Se la merita, è proprio la voce, sì, cioè, sì, voce assolutamente. Edoardo voce. Ha organizzato un grandissimo concerto quando... No? Quando è mancato, sì, 20 giorni dopo a Piazza del Popolo, dove hanno partecipato quasi tutti. Ma sì, non puoi mancare, è vero? Mi ricordo di questo concerto, sì. Sì, no, ma sono quelle persone che hanno messo d'accordo tutti quanti. Io sono stato, quando c'è stato il funerale, sono rimasto in macchina, ho vissuto in macchina il funerale di Franco, perché mi sembrava più carino, visto che poi fuori la chiesa degli artisti si accumulano tante persone curiose che poi chiedono autografi, foto, invece era un momento di grande... concentrazione, perché insomma un amico che ci saluta, perché uno lo vive al di fuori di tutto questo. Oh, parliamo di cose belle, mettimi una cosa allegra, che tra un le poche che ha fatto un peperone in teste musiche tristi di Edoardo Vianello, queste cose che mettono solo tristezza. Bagnata dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare, appena ti stringo tu urli, tu piangi, mio pallido amor. Con tutte le creme massaggi la pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso, le spalle, ti lasci bruciare. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa svelata, sei come un peperone. Da quando tu prendi soleone, sei rossa spellata, sei come... Stavo dicendo a chi aveva curato questi arrangiamenti che sono belli, bellissimi. E Muzio Marcellini, che è il mio tastierista nel gruppo. Perché mantiene quell'energia del brano originale. Esattamente, lui si è rifatto agli arrangiamenti di Ennio. Però, esatto. E non si perde il lavoro di Ennio. No, nel grande Maybach, capirai. Come fai? Vedi un grande, te fa... il peperone e poi faccio una volta in America, non c'è differenza, è una cosa bella, è belle tutte e due, cioè, no allora, cioè non è sì, cioè, come dici, quello, cioè, è un comico in minore, no, però... è uguale se fai Shakespeare o fai uno spettacolo con Woody Allen, è uguale, non puoi giudicare uno e l'altro, eccetera, ripeto, però sai che ogni tanto c'è questa, tu sei un presentatore, no, tu sei un attore, tu sei un doppiatore comico, tu sei... non c'è sta, perché se Edoardo canta degli anni 60, esatto, Edoardo canta una canzone drammatica, arriva molto di più. Abbiamo "Oh mio signore", scusami. C'è, la conosco, è bellissima, la ho sentita dal vivo l'altro giorno. C'è qui "Oh mio signore"? Certo. C'è tutto. C'è, tu manca niente, stavo vedendo. Qui ecco "Oh mio signore", la sesta di questo Il Re Mida dell'estate. Però volevi sentire la Tremarella. Beh, l'arrangiamento è proprio particolare. Vai, la Tremarella l'abbiamo lì, l'abbiamo raggiunta. Allora vai, eccola. Tremarella ballando al surf, sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia e fisso il mio cuore. Oror. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Di fronte metto la mia mano, o mi farebbe un capo indiano, non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore fa. fai un rap con Edoardo? Un freestyle. Un freestyle con un pezzo così. Rovinerei tutto, perché? No, così lo metti nelle fregne, lo rubi. No, pensavo un remix rap di questi pezzi sarebbe interessante. Uno l'ha fatto Brusco con Abbronzatissimo. Certo, me lo ricordo, il pezzo di Brusco me lo ricordo. C'è anche Edoardo insieme meglio le storie tese, qualcuno mi dice, no? Sì. L'immortacci. Ah, sì, l'immortacci. Bellissimo. Vogliamo sentire anche Cibernella. Che cos'è Cibernella? Lo sa Cibernella. Ah, è un pezzo di una serie di cartoni animati. Sì, capito, te ne sanno più loro ogni tanto che di quello che intervista che prepara. Una volta me l'hanno chiesto a Luca i comics. Certo. Ma non è mia. È come Fabio Concato che è venuto e dice, abbiamo sentito i cori che faceva all'inizio della sua carriera dei cartoni animati. E c'era lui. Dice, ma poi lui ha messo, sì, è vero, sono io. Vabbè, ma bisogna riconoscere. Quando hai capito che avresti fatto questo mestiere, Edoardo? Subito. Prima di farlo. Sì, immediatamente. Perché poi in famiglia di la verità che andavi in giro per le donne e volevi sì, quello si è capito, quello cioè, non c'è bisogno, ha cominciato a cantare per convincere le signorine. Certo, ma quello perché uno perché noi facciamo attori secondo te? Cioè, perdona, perché tutto c'è qualcuno che fa il produttore. Esatto, quindi gli americani. La sua prima canzone si chiama Pupa. Vabbè, Pupa. Il suo core business è quello, cioè ama le donne. Con le rispetto. Donne mi ispirano, è diverso. Esatto, quindi. Ti ispirano, ma le donne sì, ecco, sono il motore per... Certo, in questo senso si parla di rispetto, non t'ha coercizzato, non siamo davanti a questi signori e padroni che pensano di far bimba farò di te una stella, insomma, non è così. Non t'ha fatto cantare, sei rimasto ingegnere elettronico tu. Io continuo... No, le feste private canta, sì. Non mi invita. Non mi invita, cioè, no, quando c'è il concerto... Grazie. Frida, con tutto il rispetto, santa miseria. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con il meglio di Voice Anatomy speciale 24 dicembre. Gennaio 2017. Scosse di terremoto, neve, gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto l'hotel Rigopiano isolato dalla neve. Maggio 2017. I temi di questa giornata economico-finanziaria, se dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi. Per il momento. Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grandissimo protagonista. Ottobre 2017. Sai cosa mi piace della vicenda della Catalogna? Caro David, mi piace il fatto che si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io infatti godo come un pazzo, si scannassero tra di loro. Rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna, confini blindati. Tu sei un creatore di casino. Stupendo. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo. Tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018. Con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Voice Anatomy. Ed eccoci di nuovo qui, signori miei, ancora buona vigilia a tutti. Stiamo festeggiando riproponendovi il meglio delle puntate andate in onda nel corso dell'anno. Attori, doppiatori, cantanti, insomma, voci che hanno fatto la storia della cultura italiana, voci che spesso noi tutti conosciamo molto bene, che sono entrate a far parte della nostra quotidianità. Lasciamo che il prossimo ospite si presenti da solo con la sua interpretazione di un brano di Gianni Rodari. Io conosco un signore che inventa parole nuove. Per esempio ha inventato lo spennello, che serve per disfare un quadro se non è bello. Ha inventato l'anticappello, per le persone che non sentono freddo alla testa. Lo stemporale e la tempesta. La stempesta, che fanno tornare subito il sole, e molte altre parole di grande utilità in campagna e in città. Ora, ha in mente di inventare il verbo slitigare per dividere i tipi letichini e trasformare i nemici in buoni vicini. Finora quel verbo gli è venuto maluccio, non funziona, ma lui non si sgomenta, ogni giorno ritenta. E prima o poi di certo troverà la parola per mettere d'accordo tutta l'umanità. Avere Tom Cruise qui Non era male, eccomi, c'è una poesia di Rodari. Ha faticato molto per dirla in italiano, ma c'è riuscito, sei stato bravo. Anche perché, scusate, io sono americano, io questa lingua, questo stampa, questo verbo che io non conosco, perso essere, io molto stanco perché appena svegliato dopo aver fatto fattuta notte di gozzoviglie. Ma con chi, che non c'è più nessuno dentro casa? Tom, dai, ti prego. Ma io avrei soprattutto il mio alter ego italiano. Com'è, come si chiama? His name is Roberto Sciavaglia. No, che Sciavala? Sciavaglia. Non è scritto. Noi a Marvel diciamo Sciavaglia. È scritto Chevalier. Chevalier, scrivo due e porto terre. Signori, Roberto Chevalier, ospite ai microfoni di Radio 24, Voice Anatomy, non poteva mancare. È un appuntamento che portiamo avanti da un anno con Roberto. Sì, una volta per colpa mia. Io gli ho detto, guarda, ci riusciremo. E sì, se non ci riusciremo, ci riusciromolo, ecco. Uno dei due ci riesce. Questo è Roberto Chevalier. Meno male che quando doppia non può dire queste cose, ma ce le dice a noi in sala. Se sai come diciamo noi francesi, sono piccole e tronzade. È vero, adesso questo nome è come Maurice Chevalier, scritto uguale, no? Giusto, mm-hmm. Roberto? Per cui sei di origine francese. Tu nasci a Roma però il 14 maggio del 1952, lo dico. Sei un uomo, si dice. Ho fatto anche, sì, partecipato anche all'inaugurazione del Colosseo. Cioè, tu la Garra e Baudo eravate. Io la Garra e Baudo. E Loretta Goggi. E Loretta Goggi, giustamente. Che ci siete sempre stati. Sempre e sempre saremo. No, ma Chevalier, questa cosa del cognome te l'ho sempre dovuta chiedere, in mille anni che ci conosciamo non te l'ho mai chiesta. Da dove arriva questo? Ma qualche normanno che è venuto in Italia a sgavazzare. E ha lasciato il cognome. E ha lasciato il cognome. Non solo. Ha lasciato pure qualcos'altro. Perché Roberto Chevalier di Miceli. Esatto, come vedi c'è una parte anche italiana. Sei un normanno, ma sei biondo, sei rosso tu, o almeno è lo eri. Rosso pentito, ero rosso tiziano, si usava dire, ma sì. Poi sai, con l'età, insomma. Però con la divisione bianco e nero eri grigino. Ero un grigio accentuato. Ora sentiamoci lo Chevalier in un doppiaggio straordinario, bello, tratto da un film storico come Il Padrino 3, dove tu eri Andy Garcia, o Andy Garcia era te, insomma. Eravamo un tutt'uno, io la sua voce e lui il mio corpo. Esattamente, Andy Garcia, Roberto Chevalier, Il Padrino 3. Avanti, lasciala. No, scannala! Che hai detto? Gli ho detto di scannarla, per Dio! Ok, amico, lasciala. Molla tu la pistola, se no la scanna davvero. Ma che cazzo dici? Io non la conosco quella. Su, dai, scannala, che cazzo me ne fotte. Non hai scelta. Quella bionda ci rimette la pelle. E io vi ammazzo tutte e due. Tu molla il coltello, io mollo voi due. T'ho detto scannala, dai, muoviti! Aspetta! Vediamo se ti convinco. Non ti spaventare, non faremo mosse improvvise. Guardami, d'accordo? Capito che ho detto? Sì. Ok. Cazzo! Lascia il coltello. Avanti, buttalo! Bravo! Seduto, ti devo parlare. Hai fatto bene, siediti, ti devo parlare. Levati la maschera. Di chi è quest'idea? Chi ti manda? Coraggio, parla, chi ti manda? Nessuno! Hai guardato bene questo? Sì! Allora, chi ti manda? Joy Sasa. No! Cattivo. Sì. Sei così, sei. Sono duro e puro. Eccolo là. No, Roberto, tu hai cominciato veramente presto. Stavo dicendo che eri in pensione, ma non era ovviamente un'offesa, che hai cominciato veramente. Io ho cominciato a 5 anni, 31 ottobre 1957, primo contributo. Potete controllare all'Empals, sì, si chiamava sì, così. Sì, esattamente. Per cui sei in pensione da... Film Giovani Mariti. Diretto da Mauro Bolognini, con Antonio Cifariello, Antonello Lualdi, Ennio Girolami. Come? Una Guarnieri al debutto. Per cui prima cinema. Prima cinema, come è successo? Papà, mamma, qualcuno della famiglia? Mamma. Sei figlio d'arte anche tu? No, non figlio no, d'arte, no. O sei figlio d'arte? No, che cosa sei? Sono un figlio normale. Un figlio normale, diciamo. Mamma aveva la mania del cinema. Sapeva che c'erano degli agenti per bambini, portò la mia foto a questo agente per bambini, il quale sapeva che Bolognini cercava un bambino tipo inglese. Con cognome francese. e fece il primo film e fui doppiato. Dai. Da Ludovica Modugno. No, vabbè. Perché probabilmente stavo già facendo un'altra cosa. E tu doppiato da Ludovica poi. Ma poi in una pubblicità, quando avevo mi pare 18-19 anni, 20 anni, ero sempre fuori in teatro, in giro, in tournée, e fui doppiato da Sandro Acerbo. Mamma mia, ragazzi, che bello. Loretta Goggi però ancora non l'avevi incontrata. Loretta Goggi l'ho conosciuta, avevo 8 anni, nella Tragedia Americana. Lei entrò in sala prove 4 a Via Teulada con un vestitino, credo fosse di organza, azzurrino, con la gonna tutta, era tutto un completino, tutta la gonna gonfia. Quanti anni ha lei, più grande di lei? Lei ha 2 anni più di me. L'abbiamo distrutta con La vidi entrare e un tuffo al cuore immediatamente. Andai da lei, mi presentai, e mentre provavamo poi al tavolo, c'era il lungo tavolo dove si leggevano i copioni, io le offrivo le caramelle, ero completamente cotto. E Maiano naturalmente mi rimproverò. Anton Giulio Maiano, Maiano. Regista degli sceneggiati veri. E con Loretta poi abbiamo fatto 3822 cose periodico insieme in TV. Sì, io vi ho visto una puntata con Gianni Minoli di Mix, 4 puntate per parlare di quello che avete fatto, quindi rimaniamo soltanto Loretta insieme. E l'ultima cosa che lei fece come attrice in TV prima di dedicarsi brillantemente alla carriera di showgirl, perché lei già faceva le imitazioni per noi colleghi quando facevamo Le Stelle Stanno a Guardare, eccetera. L'ultima cosa fu regia di Giuseppe Fina, I Passi sulla Neve di Mario Soldati, dove finalmente, ma dai, le davo un bacio. Nella fiction? Nella fiction. No, che fiction, si chiamavano nella fiction. Nella sceneggiato? Te cazzo. No, non erano sceneggiato, era un originale televisivo. Un originale televisivo. E lei, io avevo 19 anni, 17 o 18, 19, beh, allora non mi ricordo, avevo, Fina aveva voluto che mi facessi crescere i baffetti, avevo i capelli tutti indietro alla Mascagni. E finalmente le davo un bacio. Ma un bacio cinematografico? No, cioè, te credo. In televisione non era possibile. Io ero innamorato e basta. Hai continuato ad essere innamorato per 1000 anni? No, era un amore puro, un amore che era nato da bambini. Io la rispettavo, l'adoravo, l'amavo follemente, ma non le ho mai detto nulla. Glielo lo dissi, lo confessai, solamente in quell'intervista a Mixer. E da allora in poi, che l'intervista a Mixer credo sia 6-7 anni fa, quando si parla di questa cosa, io lo dico, ma ho tenuto il segreto per più di 50 anni. Madonna, e se lei avesse... E chi può sapere? Chi può sapere? Certo, se pure te non ci hai provato direttamente. No, no, mai, lei... mai. Ma lei mai, ha mai ammesso mai, che non gli era indifferente a questo punto? No, perché non c'è mai stata una... Non lo so se l'ha ammesso dopo la cosa di Mister, non lo so. Io non ne ho... Non l'hai mai so. È meglio non sapere, come la teoria quantistica. No, certe io cose. Trovo che è una cosa bellissima, un sentimento vero, puro. Pulito, puro, di bambini, poi... parlo di me, non so se era reciproca. Bambino, pulito, adolescente, poi adolescente, poi primi albori. Dell'omitudine, esatto, l'adolescenza. Ma poi ognuno ha seguito la sua strada senza mai dirselo, senza mai. È stata una cosa bella, bella, bella, che ricordo ancora con tanto affetto. Sentiamo Tom Cruise, ma soprattutto Chevalier in Top Gun. La scommessa è di $20. $20, esatto. Dovrai avere rapporti carnali con una ragazza questa volta. Qui dentro, sul posto. Qui dentro, sul posto. Coraggio, i patti sono patti. Non so, è che non mi sembra divertente. Per te intendo. Tu non puoi più amarmi. Io che cosa? No. Sì. No, assolutamente, guarda. Vedrai, Gus. Ah, ma dai, ma... Detesto quando fa così. Merda. Adoro quella canzone. Non avevo mai visto usare questo sistema. Da quanto tempo fate questo numero? Ma non saprei. Dalle elementari? Ecco, sì, dalle elementari. Io sono Charlotte Blackwood. E io Maverick. Maverick? Stavi antipatica a tua madre, per caso? No, è il mio nome di battaglia. Sei un pilota. Infatti, sono un pilota della Marina. Oh. Quel numero lo abbiamo fatto solo 2 volte. E com'è andato? Con la prima un disastro totale. È stata una cosa terribile. E con la seconda? Non lo so, te lo dirò domani. Ma per il momento non sembra male. Ripeti, ma per il momento non sembra male adesso? Non lo so, ma per il momento non sembra male. Cioè, sono passati 31 anni, per lui niente è passato. Senti, a cosa sei più affezionato di carriera? La tua, quella televisiva, degli sceneggiati di origine televisiva, come attore di cinema, come attore di teatro. Teatro. E l'esperienza al Piccolo di Milano con Strehler è stata formativa. No, ma tu non sai una cosa, adesso ti racconto quello che ha determinato la svolta della mia carriera. Lo sliding doors. Quindi io nel 77 vengo... Dunque, mi chiamò già Strehler quando avevo 9 anni per fare il Galileo con Tino Bozzelli. E io ero in televisione, stavo facendo Pel di Carota, non ci potevi andare. Madonna! Ti proposero Galileo e tu stavi facendo Pel di Carota. Sì. Però non è e male. Inaugurai la sede Rai di Napoli nel 61. Nel 77 mi chiama, senza nessun provino, senza niente, per fare l'Arlecchino servitore di Due Padroni, il ruolo di Silvio. E cominciamo a fare tournée in giro per il mondo, in Italia, e lui gli piace da morire e dice: questo ragazzo è bravo, bisogna farlo lavorare. Quindi subito dopo feci La scuola delle mogli e per 4 anni feci questi 2 spettacoli. E, mentre ero in tournée con l'Arlecchino in Giappone, purtroppo mio padre si ammalò gravemente, repentinamente, di cirrosi epatica. Io feci in tempo a rientrare in Italia e vederlo e abbracciarlo, e poi dovevo tornare a debuttare a Milano. Stavo in palcoscenico e mio padre morì. E mia madre, come reazione fisica, ebbe un tumore bruttissimo. E quindi ero sposato da poco, avevo Davide che aveva appena 1 anno e mezzo, 2 anni, no 3 anni, e avevamo pensato con la mia ex moglie, perché nel frattempo ho divorziato eccetera, avevamo pensato di trasferirci a Milano, ma con la malattia, la morte di papà, la malattia di mamma, e mia moglie nel frattempo ci aveva anche un po' ripensato, perché per il suo lavoro era difficile trasferirsi a Milano, Davide era piccolo, mi trovai a un bivio: scegliere la carriera o gli affetti, seguire mio figlio, mia moglie e mia madre nella sua malattia. E io non ebbi dubbi, scelsi gli affetti. Assolutamente. Quindi interruppi questa promettente carriera e tornando a Roma continuai, seguì mamma per 1 anno e mezzo, tutte le sue operazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Continuai la passione teatrale con Ileana Ghione, che era stata mia madre nel David Copperfield, lavorando al Teatro Ghione con lei per 4-5 anni. Ma tu sai, Pinuccio, quanto è faticoso fare 3 turni al giorno e la sera lo spettacolo, no, oppure 2 turni al giorno, le prove dello spettacolo nuovo il pomeriggio e la sera fare lo spettacolo vecchio, mio. Anche se sei giovane alla fine strippi. Di conseguenza abbandonai il teatro e mi dedicai anima e corpo al doppiaggio, che mi permetteva di essere stanziale, e di conseguenza già facevo gli attori importanti, quindi prese piede il doppiaggio, divenni direttore di doppiaggio, dialoghista, e la carriera del doppiaggio decollò. Roberto, ti voglio bene, grazie. Grazie a voi, grazie Roberto a tutti. Chevalier, a tra poco. Ciao pubblico. Questo è il meglio di Voice Anatomy. Ora il traffico. Torniamo tra pochissimo. Per me il desiderio è qualcosa che si vuole ricevere o comprare. Per me l'amore è quando vuoi bene ad una persona o ad una cosa e fai il possibile per stare con quella cosa o qualcuno. La paura per me è un sentimento legato anche all'amore, in un certo senso, perché noi abbiamo paura quando non vogliamo perdere qualcosa. Amore, paura, desiderio. 3 parole che punteggiano le giornate dei più piccoli. 3 parole che scopriremo meglio con l'aiuto dei più grandi. Torna a terra in vista con Le emozioni spiegate a mio figlio. Scienza e poesia, storie e mondo animale, sentimenti ed esperimenti. Telmo Pievani e Federico Taddia vi aspettano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio alle 9. Terra in vista per delle feste ricche di emozioni. Voice Anatomy. Di nuovo qui insieme per questo meglio di Voice Anatomy pre-natalizio, in una carrellata degli amici e degli ospiti che ci hanno fatto compagnia nel corso dell'anno. Come nel brocco precedente, anche adesso non vi dico subito il nome del prossimo ospite, ma voglio che lo indoviniate a poco ascoltandolo mentre legge una lettera tratta dal libro Le relazioni pericolose. Vi do un indizio: dal libro è stato tratto anche un film con John Malkovich protagonista. Vabbè, con questi indizi avete capito già tutto, ma ascoltiamo. Dopo una notte travagliata e durante la quale non ho chiuso occhio, dopo essere stato senza tregua in preda ad una agitazione terribilmente sconvolgente o nel completo annientamento delle mie facoltà mentali, la calma di cui ho bisogno non spero che ancora mi sia dato di godere. Infatti, lo stato in cui mi trovo mentre vi scrivo mi fa capire, come mai prima, l'irresistibile potenza dell'amore, Faccio fatica a conservare su di me quel tanto di dominio che basti per mettere un po' di ordine nelle mie idee. E già prevedo che non riuscirò a finire questa mia lettera e sarò costretto ad interromperla. Ah, ohimè. Non posso dunque sperare che voi condividiate un giorno lo smarrimento che io provo in questo stesso istante. Oso chiedere però che, se voi lo conoscete bene, non potreste essergli del tutto insensibile. Credetemi, signora, la fredda tranquillità, il sonno dell'anima tanto simile alla morte non portano affatto alla felicità. Solo le passioni attive ci possono riuscire, e malgrado i tormenti che voi mi fate provare, io credo di potere con tutta sicurezza affermare che in questo momento io sono più felice di voi. Invano voi mi respingete con la vostra crudele severità. Essa non mi impedisce di abbandonarmi completamente all'amore e di dimenticare nel delirio che esso mi produce la disperazione nella quale voi mi avete gettato. Così che io voglio vendicarmi dell'esilio alla quale mi condannate. Mai ho provato tanto piacere nello scrivervi. Mai ho provato così intensamente un'emozione tanto dolce e allo stesso tempo così viva svolgendo quest'azione. Ogni cosa sembra aumentare la mia estasi. L'aria che respiro è carica di voluttà. Questa stessa tavola dalla quale vi scrivo, inaugurata per la prima volta a questo uso, diviene per me l'altare sacro dell'amore. Oh, come diventa bella ai miei occhi! Da qui vi avrò scritto il giuramento d'amarvi per sempre. Perdonate, ve ne supplico, la confusione delle mie idee. Io dovrei forse abbandonarmi meno a slanci che voi non condividete. Bisogna che mi fermi un momento per calmare un'eccitazione che cresce ad ogni istante e diventa più forte di me. Eppure il mio amore non fu mai più rispettoso e mai sono stato meno capace di recarvi offesa. Il mio sentimento è talmente puro, oso dirlo, che la virtù più severa non dovrebbe temerlo. Ma io stesso ho paura di intrattenermi più a lungo sul dolore che provo, poiché sono certo che la causa di ciò non vi riguarda. Non è il caso di abusare della sua bontà, perdendo altro tempo nel tratteggiarvi questa dolorosa immagine. Mi limiterò a supplicarvi di rispondermi e di non dubitare mai della verità dei miei sentimenti. Sto aspettando tanto prima di riparlare, in modo tale voi possiate dimenticare la voce che avete ascoltato fino adesso per poi saper ascoltare la mia. Signori, sì, come dite già, Luca Biagini, grazie. Grazie a voi, ma mi avete pregato perché io non te l'avevo impronta. Sì, alla... ma quella è la bravura, sta tutta lì Luca. Sta comunque tutta lì, bello. Bello. Viene da solo, poi alla fine. Sì, piano, è come Michelangelo che dice: sta già dentro il pezzo di marmo. Ma è la vero, statua. Sono parole talmente belle che sì, insomma, se ti c'entri un pochino dentro, poi vai. Certo. Tu, Michael Keaton, l'hai sempre seguito. Più o meno. qualche piccola sai, colleghi bravi, succede. Non è un problema. C'è anche un Batman, però c'è anche il founder, questo la storia del fondatore di McDonald's. Sì, che poi non è lui McDonald's in realtà, lui è assolato. Sì, in effetti sì, lo vedo, perché il brand McDonald's esisteva, lui passa lì davanti e capisce però come sfruttarlo. Sì. Sentiamoci il momento, un trailer del The Founder. So cosa vi chiedete. Come fa uno di 52 anni, attempato, che vende frullatori per milkshake, a diventare il fondatore di un impero del fast food con 1600 ristoranti e un fatturato di 700 milioni di dollari? Una sola parola: perseveranza. Please Castle, vendite? Ciao, June. Ray, va tutto bene? Certo, bene, tutti interessati. Abbiamo un ordine, 6 frullatori. Chi è il cliente? McDonald's. Vuole fare un giro? Volevamo fare una cosa diversa. E allora mio fratello ha avuto una delle sue idee geniali. L'ordinazione è pronta in 30 secondi, non 30 minuti. Unico, originale, non ha eguali. È rivoluzionario. Sì, esatto, è rivoluzionario. Che cosa sono? Archi dorati. Danno riconoscibilità. Dovrebbero esserci McDonald's ovunque. Affiliazione commerciale. Signor Croc. Affiliazione, affiliazione, affiliazione. Il McDonald's sarà la nuova chiesa americana. È vero, effettivamente è vero. E non solo americana, ha conquistato il mondo. Adesso c'è un bambino che doppia le relazioni pericolose, John Malkovich. L'abbiamo sentito adesso, quel ragazzo, Luca Biagini maturo, e adesso ce l'ascoltiamo nel momento in cui è doppiato. Quanti anni sono passati? Tanti. Vogliamo dirlo? Sì. 89, quindi quanto sono? Dai, 80, quasi 30 11, anni. Quasi 30 anni. 28 anni, morto. E sentiamoci il marchese Valmont. Vai. Sono talmente annoiato. Trascende ogni mio controllo. Che intendete? Beh, dopo tutto sono già 4 mesi. Se poi vi ho detto che trascende ogni mio controllo... State dicendo che non mi amate più? Il mio amore già aveva vita difficile con la vostra virtù. E poi trascende ogni mio controllo. È quella donna, non è vero? Sì, avete ragione. Io vi ho tradito con Emily, tra le altre. È che trascende ogni mio controllo. Ma perché fate questo? Sì, c'è una donna, un'altra donna. Non è Emily. Una donna che io adoro. E temo stia esigendo che io faccia a meno di voi. Trascende ogni mio controllo. Beh, bella la scena. Il mio controllo. Io proverò a dirla a mia moglie un giorno, che non so che dirgli, dirò: trascende ogni mio controllo. Quella chiama l'avvocato. Una piccola richiesta cinefila, se possibile vorrei sentire Io sono Batman. Prego, silenzio, vai. Io sono Batman. Ecco, io sono Pino Insegno. Sembra, quanto è passato? Anche da Batman è passato tanto. Più o meno siamo lì. Vabbè, lascia stare. Senti, e invece c'è stato il discorso del re, che devo dire che è stata un'altra grandissima. Io me lo risentirei, un discorso del re, un grande Colin Firth che tu segui poi abbastanza pedissequamente, no? Come attore. Sì. Ce n'è tanti, eh. Sì. No, non te la sto tirando, cioè, se mi fa piacere, tanto io no, non li posso fare i tuoi, per cui no, no, per, non abbiamo in questo senso, non siamo, no, non siamo competitivi, no, no, no, no. Allora noi ce l'ascoltiamo questo Colin Firth nel discorso del re, con la grande interpretazione ovviamente di Luca Biagini. In questa grave ora, forse la più fatidica della nostra storia, invio in ogni casa del mio e popolo, sia in patria che oltremare, questo messaggio, rivolto con la stessa profondità di sentimenti a ognuno di voi, come se fossi capace di varcare È stato un gran lavoro questo, Sì, vocalmente parlato, molto complicato, perché sì, più che balbettare erano proprio apnee, attacchi di panico, per cui gli mancava proprio il fiato, e quindi dovevi cercare di respirare. Questo sempre succede, la gente, lo sai, deve sentire la fatica, deve sentire la fatica, per cui quelle pause non sono pause, non sono buchi, ma sono recitate, quei silenzi. Sì, senti proprio l'apnea, la difficoltà di... Sì, che chi ti segue resta col fiato appeso anche lui. Non è il tartaglio di Woody Allen, no, che lì hai fatto che funzioni straordinario. Sentiamocelo questo basta che funzioni, l'inizio, dove tu facevi il protagonista di questo film di Woody Allen. Parti un attimo. Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E, per essere chiari, questo non è un film da quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Mamma, guarda, quell'uomo parla da solo! Su, vieni, Justin. Bello questa parte. Ma qual è il significato di tutto? Niente, zero, nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me, io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV, tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore, i vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E che bello. Luca, siamo arrivati alla fine di questo blocco e ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi tantissimo. Grazie, è sempre un piacere. Siamo solo a metà di questa puntata con il meglio di Voice Anatomy dell'anno. Restate con noi, torniamo dopo la pubblicità. Voice Anatomy. Seconda parte di Voice Anatomy. Fra poche ore scarteremo i regali sotto l'albero, ma anche noi qui non ci stiamo facendo mancare niente con il meglio di quanto è andato in onda nel corso dell'anno. Adesso è il momento di Fabrizio Vidale, attore, doppiatore, comico e anche conduttore radiofonico. Fabrizio è figlio d'arte, figlio del grande Franco Latini, il primo a dare la voce a Paperino, per esempio. Eccolo, tutto per voi, Fabrizio Vidale. Voice Anatomy. Lui doppiava tutti i personaggi della Hanna-Barbera, della Warner, Daffy Duck, Bugs Bunny, Gatto Silvestro, è vero che... Napo Orso Capo. La cosa bella di questi doppiaggi è che anche in America era uno che doppiava. E infatti proprio per quello scelsero lui, perché in America era Mel Blanc. Sì. E qui in Italia all'epoca Roy De Leonardis, che era colui che curava che un po' tutta le la parte, certo, dell'animazione, volevano scegliere una persona e scelsero mio padre perché aveva tutte le caratteristiche vocali che potevano andare a coprire i vari, certo, personaggi. Avevi un papà che faceva tutti i cartoni tutti animati. Fantastico. Hai risparmiato sulla televisione. Sì. A pagare i rate di qualsiasi cosa. E poi ci ha lasciato in eredità alcuni personaggi, perché poi quando lui se n'è andato rifacemmo i vari provini, le varie cose. Io per un lungo periodo feci Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Mia sorella Ilaria tuttora fa Titti. Quindi, insomma... Questo è proprio, si tratta di aver tramandato, sì, qualcosa ai propri figli. Sì, Speedy, sì, Gonzales. Com'è Speedy Gonzales? Hola, signor Gattone! Arriba, arriba, arriba, arriba! Fabrizio Vidale, Speedy Gonzales, ti prego. Ti prego. No, di una cosa, leggi, leggi l'elenco del telefono. Di là è arrivato il sì, dottore, e l'attendo di fuori. Non è facile, non è facile. Cioè, signori, Speedy Gonzales, voce, volto, poi assomigliavi, cioè, volevamo dire questo, sì, assomigliavi, sì, a Speedy, sì, Gonzales, sì. No, Speedy Gonzales mi era sfuggito totalmente. Però tu sei Jack Black. Sì, Jack Black, diciamo che è l'attore al quale sono più affezionato. Beh, in assoluto. Jack, sì, Black, signori, se avete dei figli, anche per voi, School of Rock, tutta la vita. Io adesso vi faccio sentire un momento di School of Rock. Guardatelo, mangiatevelo, è il modo migliore per amare un professore, ma soprattutto per amare la musica, quella vera, la scusa per cominciare a conoscerla. Vai con un Jack Black con la voce straordinaria di Fabrizio Vidale e vai. Vieni qui tu, vediamo quello che sai fare, ok? Per provare. Ok? Ora prova tu. Ok! Va molto bene, tu resta qui. Allora, ok, Lawrence, dammi un sol. Con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E non cambiare ritmo, su, ok. Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai, ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo... Su, ok. No, non va bene, questo è George della giungla. Prova qui, sul cimbalo, ma leggero. Jack Black, totalmente, ma Speedy Gonzales si sono rimasti. Beh, Ollie e Benji. Ollie e Benji ha segnato la storia. Ha segnato tutti i segnato proprio. Eccoli. La, la, la, la. No, questa no. Assolutamente. Però era bello quando lo doppiavamo, perché loro erano, in originale erano giapponesi. Beh. E quindi è... Era tutto un po'... E quindi era anche difficile seguirli. Io lascio le originali per far cambiare la gente a qualche detrattore che dice, ma voglio guardare Ollie e Benji con i sottotitoli. Tutta culturale la voce. Eleonora ci ha raggiunti e abbiamo sempre bisogno di un tutore. Insomma, Bruni, che ne dici di questo mestiere del doppiatore? Meraviglioso. Veramente affascinante, devo dire. Insomma, visto adesso un po', grazie a voi anche, dal di dentro davvero c'è un bel mondo. Un mondo, perché poi non si tratta mai appunto di una semplice riproposizione, ma c'è in qualche modo un lavoro di interpretazione profondo, certo. Una competenza attoriale strepitosa che va ben oltre la voce, no. Ma c'è proprio un grosso lavoro appunto di senso, di significato. Sì, veramente bellissimo. Deve ridare quell'anima in qualche modo, pur stando fuori e non sì. avendo tutto quel tempo che hanno avuto, che hanno loro. Esatto. Loro, certo. Qui, ma anche i Rutti doppiate o li lasciate in originale? Dipende, se c'è la colonna internazionale, esatto. Non possiamo intervenire. La colonna internazionale in un film sono la musica, gli effetti, e certe volte il respiro, certe volte i bacetti rimangono originali. Altrimenti, che è poi più difficile entrare quando il respiro è originale, devi entrare con la battuta, eccetera. Quella è la colonna internazionale. Certe volte ci sono, certe volte non ci sono. A volte non ci sono. Allora sì. È imbarazzante, però bisogna farlo. Sì. Insomma, non è complicato. Facciamo di tutto. Facciamo sì, di sì. tutto. E a volte c'è qualche ragazza che è più brava con noi di noi con i Rutti e dice: vabbè, lo faccio io il Rutto perché magari uno che. Oh, no, è capitato. È storia. Voglio sentire un altro tuo Vidale, un altro tuo momento, un altro film, non Jack Black, abbiamo sentito Behind Rewind, guardatelo, è straordinario, School of Rock neanche ne parliamo, deve stare presente come The Dark Side of the Moon dentro ogni nastroteca, discoteca della vostra vita, ci deve essere School of Rock e The Dark Side of the Moon come disco. E invece sentiamo Chris Rock, un altro attore negretto simpatico, molto. Comico pazzesco americano, in Bad Company. Prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Joel Schumacher. Il mio gemello era della CIA. Vogliamo che lei prenda il suo posto. Quando si comincia? Adesso. Gli uomini migliori della CIA hanno solo 9 giorni per evitare una catastrofe. Buongiorno, signor Ace. Ehi, che diavolo vi ha preso? Adesso ogni... Codice rosso, entrate in azione. Secondo. Via. È vitale. Chris Rock. C'è una bomba sul sedile. Moriremo. Il premio Oscar a Anthony Hopkins. Fa qualcosa. Spara le gomme. Il futuro del mondo libero ora è nelle mani di quest'uomo. Nessuno sa fare di più. Voglio tornare a casa mia! Nessuno sa fare di meglio. Oh. E nessuno sa fare di peggio. No! Prendi la bomba, ti copro! Perché non prendi tu la bomba, io ti copro! Bad Company, protocollo Praga. Qualunque sacrificio per il proprio paese. Mi passi l'asciugamano. Ma un altro molto divertente è stato Scary Movie. Ah, come no, Marlo Wayans, quell'altro negretto straordinario. Come no? Io ho fatto solo il primo, non dico mai io in questa trasmissione, però per Scary Movie io ho riso stato... veramente troppo. Sì, io facevo l'assassino tanto. E lo stupido, per la sì, stessa sì, parte. Lady Killers, anche un bellissimo film sì. fatto da Marlon Wayans, molto con Tom Hanks. È vero. Che andarono a rubare nella non casa. So, della non vecchietta. È dei fratelli Coen quello, no, non c'entra niente. Forse non sì. Sai che forse sì. Forse sì. Non so se dei fratelli o di uno dei due, ma sicuro. Beh, dei fratelli Coen feci Fargo, la serie che hanno fatto poco tempo è vero, fa. Tu sei Martin lui. Freeman, sì. Tu sei il protagonista di Fargo. Sì. Sì, bellissima serie, anche meravigliosa, bellissima. E Martin Freeman, che ho doppiato anche nello Hobbit. È vero, un Matrix anche. Sì. Marcus Chong, Marcus chi era Chong. Dentro Matrix Marcus Chong uno dei due era diciamo l'operatore assegnato a lui che lo doveva aiutare quando lui andava in missione e poi lo aiutava anche a tornare perché come vi ricordate la cabina del telefono sì. succedeva lavorava a Casip. Sì, era un operatore. Dica. Risponde operatore 713 Matrix. Sì, beh, Bellucci ha fatto con quella voce. Ah, sì, vabbè, tanto non ci sente, sta in spesa in Francia. Se sta a Città di Castello invece chiama. Ha capito? Vabbè, speriamo che chiami. Insomma, magari ha sentito un po', Un po' sì, Sì, no. Sentiamoci questo bel Matrix. Io e mio fratello Dozer siamo puri al 100%. Esseri umani vecchia maniera, generati e cresciuti liberi qui, nel mondo reale. Genuini figli di Zion. Zion? Se la guerra finisse domani, è a Zion che si festeggerebbe. È una città? L'ultima vera città. Il solo posto che abbiamo. E dov'è? In profondità, vicino al centro della Terra, dove c'è ancora calore. Se vivrai abbastanza, forse la vedrai. Chi l'avrebbe detto? Ti confesso che sono ansioso di vedere di cosa sei capace, se Morpheus ha ragione o no. Non dovremmo parlare di questo, lo so. Ma se tu sei... Ci sarà da divertirsi. E ci sarà da divertirsi, sì, caro sì. Fabrizio questo Vidale. È stato diretto questo film da uno degli ultimi grandi maestri, Pino Golizzi, che mi ha insegnato tanto ed è stato la persona che mi ha fatto cominciare questo lavoro. Te l'avrei chiesto proprio adesso, ecco, pensa, a quale persona sei grato? A Pino Golizzi. Io accompagnai mia mamma alla vecchia Fonoroma, perché adesso la chiamiamo la vecchia Fonoroma, perché prima era Piazzale Flaminio, sì. E questo palazzo immenso era un po', sembrava di entrare appunto in questo regno. Bellissimo. E io accompagnai mia mamma, che anche lei faceva doppiaggio e lavorava per una società, e io la aspettavo in questo bar immenso che stava al terzo piano, e arrivò Pino, che stava doppiando Robin Hood e i compagni della foresta della Disney, 73 e mezzo, diciamo sì. 3 anni e mezzo, e cercavano la voce di questo coniglietto piccolissimo che si chiamava Codicillo. E non riuscivano a trovare un bambino che fosse credibile, perché era talmente piccolo che ci voleva una voce di un bambino vero. E quindi, senza dire niente a mia mamma che stava lavorando, Pino mi prese, dal vero mia mamma si spaventò, perché quando andrò a cercarmi non mi ha trovato. E io stavo in braccio a Pino Golizzi a fare la prova del coniglietto e poi io ho fatto. Quindi primo doppiaggio è stato Robin Hood dei compagni della foresta, Codicillo. Ma dopo ha continuato, a parte Spidi Gonzales, sì, le simpatiche canaglie. Sì, ma tu sei anche Pimpa. Pimpi di Winnie the Pooh. Ah no, è Pimpa. Ah no, Pimpa è un'altra cosa. Pimpa è un'altra cosa. È l'altro personaggio. Sono stato Pimpi per tanti anni. Adesso non lo faccio più. Sì, non farlo più. Non lo faccio più. Sono cose che... No, sono rimasto molto legato, perché è stato un bellissimo periodo, molto, molto lungo, affiatato. Perché poi, insomma, Winnie the Pooh è uno dei più bei cartoni della Disney. E parlava tutta così perché era un piccolo maialino impaurito. Io ti amo. Poi parliamo di come si comincia a cantare. Abbiamo già parlato della respirazione, dei primi vocalizzi, ma il riscaldamento, a questo punto, ma il riscaldamento è fondamentale. In realtà, in qualche modo, interessa a chiunque usa la voce per motivi di lavoro, certo, e non solo lavoro artistico, no, professore, insomma, a scuola. Spesso, il politico, esatto, sia per avere proprio un'efficacia comunicativa, sia per avere un'efficacia vocale. Gli esercizi di riscaldamento sono quelli che molto rapidamente dovrebbero portarci ad avere un corpo pronto all'emissione della voce, come i muscoli per un atleta, esattamente, dai. Perché poi in realtà, appunto, come dicevamo, cantiamo, parliamo ed emettiamo suono con l'intero corpo, quindi sì, c'è questo grosso lavoro da fare sulla libertà del respiro. Ci tengo sempre a sottolineare questo equilibrio e questa libertà, perché anche gli esercizi non devono mai essere eccessivi, forzuosi, troppo duri ed atletici, per così dire, ma devono condurci a un assetto naturale, facile, in cui ci troviamo con la voce pronta a fare quello che poi verrà dopo. Si tratta proprio di acquisire dei piccoli dei saper fare che sono corporei. Devo dire che serve non solo appunto ad avere una voce più pronta quando poi andiamo in scena, sia che facciamo i cantanti, sia che facciamo gli attori, sia che facciamo un lavoro vocale di qualunque tipo. Sì, poi si chiama il nodulo dell'insegnante, no? Quando gli insegnanti perdono la voce. Gli insegnanti di scuola hanno veramente spesso delle problematiche vocali non indifferenti. Le logopediste se ne occupano moltissimo. Io lo urlo da questi microfoni da 2 anni, perché non dite che dico le stesse cose, ma io lo urlo di mettere italiano nelle scuole, ma non la grammatica soltanto, l'italiano. E poi l'impostazione vocale. Abbiamo uno strumento che sarà il nostro strumento di comunicazione più importante della nostra vita, che è la nostra voce, che non è la bella voce, ma è la voce giusta per salvaguardarla, per parlare, per comunicare, per vendere, per acquistare, per fare tutto. Per avere uno strumento longevo che duri nel tempo. Una chitarra io la posso anche trattare male, me la ricompro nella peggiore delle ipotesi. La voce fa parte del mio corpo. Sono la due corde vocali che sono un centimetro, 12 millimetri. Sì, l'una. Sono piccolissime, possiamo pensarle quasi come l'unghia del mignolo, insomma, proprio un organo minuscolo. C'è un organo minuscolo. Io sì. Un organo minuscolo. Ho due corde vocali e. Va bene. Tutto minuscolo. Tutto minuscolo. Anche il nome. Però cognome. Metto il punto e poi diventa maiuscolo. Beh. È ben insegnato così, si va a capo. L'italiano. L'italiano. L'italiano. Quello è. Però tu canti

Voice Anatomy. Ed eccoci tornati con il meglio di Voice Anatomy, una cavalcata tra le voci e gli amici che ci hanno accompagnato per tutto il 2017, la domenica pomeriggio, proprio qui su Radio 24. Il prossimo ospite è l'attore Dino Abrescia, ha lavorato in teatro, al cinema, in televisione. Ve lo voglio presentare così. Nato a Bari nel 1966, recita lungamente in teatro per poi lavorare per il cinema e la televisione. Tra i molti lavori per il grande schermo ricordiamo La Capagira del 2000 di Alessandro Piva, Il nostro matrimonio in crisi di Antonio Albanese, L'anima gemella di Sergio Rubini, Io non ho paura, diretto da Gabriele Salvatores, Se devo essere sincera del 2004 di Davide Ferrario, Manuale d'amore di Giovanni Veronesi e 2061 Un anno eccezionale, regia di Carlo Vanzina, Cado dalle nubi con Checco Zalone, Sei mastata sulla luna di Paolo Genovese, eccetera eccetera. Per la televisione, tra i molti lavori, ricordiamo un film TV, La Uno Bianca di Michele Soavi, Via Zanardi 33, Il giudice Mastrangelo 1, 2, 3, eccetera, La scelta di Laura per la regia di Alessandro Piva, Intelligence, Servizi e Segreti, Distretto di Polizia e Non contento è andato a fare pure Squadra Antimafia. Nel 2009 partecipa al cortometraggio Guerra. Vorrei gli applausi degni di un nostro amico. Da buono ce l'abbiamo registrato. Signori, Dino Abrescia. Ciao, ciao a tutti, grazie. Dopo una presentazione così... Questa c'è... musica, stavo per piangere. No, dice, è venuto a mancare. Esatto, povero, il povero Dino Abrescia. Non è... Non è... Sono invece... partiti anche i ricordi, sì. La capagira, tanti anni fa. Il film che è stato bello. Lì è stato tutto inizio. Quello che sì, mi ha lanciato. Ti ha dato il film. Sì, sì, è stato lo startup forte. Esatto. Lo sliding doors è stato questo. Insomma, esatto. La Capagira ha detto: vedi, c'è un attore. Che infatti è strano. No, infatti è strano perché prima di fare la Capagira ho fatto tanto teatro in giro. E poi dopo... Ma il teatro lo sai, è come il delitto: non paga. Per cui in tutti i sensi paga a livello artistico, meno a quello economico. No, e dopo anni e anni di peripezie. L'Elfo, scusami, giro, il teatro dell'Elfo, esatto, di Milano, l'Elfo, Gabriele Salvatore. I Teatri Uniti di Napoli. Insomma, io so, con Servillo ho fatto un paio di tournée con Tony Servillo, il Misantropo di Molière, insomma i tournée eccetera, e poi ti lancia un film recitato in dialetto barese strettissimo con i sottotitoli, cosa che non avresti che in confronto Gomorra è una cosa che si capiva, insomma. Assolutamente, anzi. Abbiamo un momento di La Capagira, sentiamo un momento proprio della Capagira. Oh Pasqua, che dici? Hai scu ma cosa beh, oh ma c'è la cornetta oie qual è? Ma tu dai, è proprio stronzo. Tu la che mandai un condenito. Dove ci stai la roba, non ci stai. Iadola chiacchia, ma sono spinito. Cosa dai? Ci c'è il materiale, E la forma del condenito, ci non c'è forma, te, come fai a cercare? Ma non great. Paglio, ma tu sei proprio. Ma tu d'occhio, dammi da, da. Oh, e meno male che la da vostra, pur te. E come la salzi, c'è tanto, beh. E da che sei? So detto, come a cosci, ma ci sta a dire? Tu la salsiccia in capo a te, non scegli. Io la tengo a te. Qual è tu stai esagerando? Non hai detto che ti rompo un pallone. Un pallone a me non l'avevo. Devi che ti rompo un pallone. Oh! Oh! Lasci da chiosta, cazzo, roba, no? Questa è musica. Sì. Una musica davvero. Ed è il film bellissimo, io l'ho visto. È difficilissimo, sono lingue. No, la cosa incredibile è che nella proiezione a Milano c'era una coppia di signori che a un certo punto si alzano perché c'erano degli amici pugliesi che avevano assistito. E lei si alza e fa. Beh, lui dice: ma basta, non volevo venire a vedere un film straniero stasera. Cioè, lei pensava era roba un bulgara, ungherese. Ma che cos'è questo? Sembrava. Sono rumeni. E sono andati via. Insomma. Dino, lì è stata l'illuminazione sulla strada di Damasco, cioè lì si sono accorti che c'era un bravissimo attore, venivi dal teatro come tutti gli attori dovrebbero fare. Esatto. E sì. Da lì è cominciata l'avventura cinematografica. Tu sì, invece sì. Quando hai capito che dovevi e volevi fare questo? È successo anche abbastanza tardi, insomma 23-24 anni, stavo a Bari e suonavo la tromba in un... avevo tipo una piccola sezione fiati e tu suoni la tromba? Suonavo, sì, suonavo la tromba nella sezione fiati, sai, quelli proprio pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tutti quanti che Tower of Power o gli Earth, Wind and Fire, sensazione esatto. Di più belle del mondo. Esatto, divertentissimo. Niente, così un amico disse: ah, ci manca una persona in compagnia. Stavano mettendo in scena un aspettando Godot di Beckett per le scuole. Dice: ci manca una persona, ci vorrebbe una persona come te in compagnia. È una specie di factor. Montavo e smontavo le scenografie e in più dicevo: sì, sì, sì. E più lo recitavi? Dicevo in questo spettacolo, dicevo tipo due battute fuori dal pubblico, che era il messaggero di Godot che arrivava e diceva: Godot mi ha detto che viene domani, e me ne andavo. E la cantatrice calva si pettina sempre allo stesso modo. Arrivederci. Poi loro, cioè Vladimiro e Stregoni, i protagonisti, dice: allora che ha detto Godot? Ha detto che oggi non può, ma viene domani. E me ne andavo, dicevo questa cosa qua. Poi la classica sostituzione, uno dei due protagonisti doveva tornare a casa, era un attore maltese per alcuni anni, non riescono in 3 giorni a trovare un sostituto. Tu sapevi la parte. Ho visto un mese di prove, 20 repliche, l'ho sostituito e sono rimasto praticamente sul palcoscenico sempre. E come succede, è nata una stella, esatto. Succede così. Esatto. Così comincia una carriera, uno dice chissà quanto ha studiato, tanto, da lì. E poi anche all'Elfo tu hai fatto fuori gli Gabbatantono, è andata bene così. Come è andata? È poi? Successo che noi eravamo a Roma, al Ridotto del Colosseo. Prima c'era il teatro mitico, teatro sì, Colosseo sì. Di Roma, che c'era tipo 6 spazi, faceva spettacoli anche sulle rampe delle scale. Esatto, cioè, da 20 posti, 12, esatto, 31 all'ingresso, nell'atrio, fuori, sì, al parcheggio, sì. Capito? 3 spettatori. Ah, qua facciamo un piccolo monologo. E tutto esaurito. Quanti sono? 4. Esatto. Cioè, 2 scalini. Le scale lì. Faceva spettacolo in uno di questi ridotti, facevo uno spettacolo, una locandiera di Goldoni, dove io facevo 3 personaggi, tra cui Fabrizio e, sì. E il servitore del Cavaliere di Ripafra, personaggi praticamente che non sono mai nessuno li ha fatti, certo. Sono personaggi fantastici, perché avendone 3 c'era un po' quella trasformazione, e c'era l'Elfo che faceva uno spettacolo, una bottega del caffè di Fassbinder al Valle. Bene. Così, uno spettacolo meraviglioso, sì. E io vado a vedere lo spettacolo e De Capitani mi dice: no, entra, so chi sei a Brescia, noi adesso facciamo un Amleto. E hai fatto questo Amleto con loro? Ci ha buttato dentro, faccio questo Amleto, ho fatto tipo 2 o 3 anni, 2 o 3 edizioni, poi da lì ho conosciuto Salvatore. Salvatore era già quasi già uscito, iniziato a fare cinema. E quindi, poi da lì ho conosciuto attori di Teatri Uniti, insomma, poi ho fatto un paio di tournée con Servillo, con questo misantropo, poi facevo questo personaggio. Beh, Servillo mi ha accompagnato un sacco di me. Parlavo anche con D'Amore, con Marco D'Amore di Comorre, mm-hmm. Perché lui è camminato parallelo a, vabbè, insomma, lì la lingua anche, certo, aiutata. Certo. Insomma, Servillo è stato vicino a un sacco di persone, nel esatto. Senso che ha dato lo startup. Sì, un sacco di persone, bravo, assolutamente. Ma io bravo. Devo dire, ho avuto anche la fortuna che, siccome mio papà faceva il poliziotto, sono cresciuto perché lo trasferirono per metà della mia vita a Napoli. Quindi io da 0 a 12 anni a Napoli e poi da 12 a 24 a Bari. Quindi diciamo che sono bilingue, le due lingue sì, quelle più difficili. Quelle più difficili e quelle soprattutto anche più comiche, esatto, più musicali, più teatrali. Cioè il barese e il napoletano, per carità. Anche poi io litigo con Susi, la mia compagna, che è di Brescia, però le dico: sai, ma tu c'hai il cognome che ti aiuta. Dove fa così, non è che proprio dai. Cioè, beh, tu hai parlato di nord e di sud, di diversità, io non posso che nominare Checco Zalone con quella meraviglia. Devo dire che ha fatto un film più bello dell'altro, sì. Con grande onestà intellettuale, sì. Bisogna ammettere, sì. Con grande gioia, veramente. Se li merita tutti, ma soprattutto si è circondato sempre di grandi professionisti, esatto, come ha fatto, sì, con sì. Te, che ha raccontato questa storia di Alfredo, il cugino omosessuale di Checco, che vive a Milano, che è stato strepitoso, veramente. E quello significa fare l'attore. Ed è, come dicevo prima, un modo migliore per veicolare la diversità e farlo capire ai ragazzi che non è nessuna cosa che non deve far paura, e così arriva. Ascoltiamo un momento del nostro amico Dino Brescia in Alfredo, questo straordinario omosessuale incato dalle nubi. Prego. Che c'è? Allora, primo, io là dentro non ci dormo. Secondo, adesso dici subito a tuo cugino che io e te stiamo insieme. Come faccio a dirgli una cosa del genere? L'hai vista? Allora, stasera a cena faccio la checca. Non lo faresti mai, non hai il coraggio. Ah no? Esagero. La checca pazza. No, la checca pazza no. La checca pazza con lo dito. La checca pazza, lo ti prego, ti prego. Come sono buone queste orecchiette. Mamma, mia zia, in cucina non si batte, number one. Fai complimenti alla mamma. Oh, oh, oh, oh, oh. Alfri, come si chiama questa? Come si chiama? burrata. Ah, la burrata. Mm, assaggiamo questa burrata. Mi sembra una nuvola. Alfri, assaggia un po' di burrata. No, non ne voglio. Dai. La conosco. Sono anni che la mangio. So. La mangerò io? Scusate. Non fate che vi mangiate tutto, eh? No, no. Vengo subito. Checo, la mamma di Alfredo e la sore... Com'è che siete cugini? Ma lo sto domandando pure io. Com'è che siamo cugini? Siamo cugini. Che bella cosa. No, ma bello, bello, guarda, bello. Che poi non, certe volte non si capisce, dicono la comicità non è figlia di un dio minore rispetto a un film drammatico. Perché questo film ha un lato drammaturgico e drammatico forte, importante. Sì. Cioè, è vero, è leggero, ma non è sopra le righe. Cioè, no, ci sta, no, perché ci sta. Il rischio, sai, quando fai personaggi non così è, nessuno. È un attimo che cade, sì, no? Cadere, lì stai, il trabocchetto è lì, diventare, disegnare una checca isterica e che non fa ridere, e lì è anche stato bravo Fabio Troiano. Sì, sì, assolutamente. Sei stati una coppia, avete fatto anche un'altra coppia gay, Non c'è due senza te. Sì, una commedia anche questo punto. Hai parlato con tua moglie, poi l'hai tranquillizzata. Ma no, io più mia madre sto cercando. Che una signora anziana è lì ogni tanto, per carità, magari certe generazioni magari non sono ancora così libere di capire, esatto. Che poi a un certo punto gli ho anche detto, vabbè mamma, ok, ma se anche fosse, ah no vabbè, comunque ti voglio bene lo stesso, anche se dovesse essere, però insomma, così era per sapere, sei ricchione, così. Me l'ha chiesto così, ho detto mamma no, no è un gioco, ma faccio detto, l'attore, sì, ma non ti preoccupare, comunque ti voglio bene lo stesso, è uguale, anche se sposi sì, una persona di colore, esatto, è uguale, esatto, per me, esatto. Ognuno deve stare a casa sua, esatto. Però vabbè, già che c'è, esatto, trattiamolo bene, esatto. Senti, la regia invece ti aveva interessato, Dino? La regia, sai cosa? È che la regia è... devi pensare a 2000 cose, fare vestiti, costumi, persone, troppa roba. A me... Sei proprio un uomo del sud. A me piace. No, ma a me piace proprio l'attore, capito? Fare il personaggio. Il meccanismo della regia, devo dire, non mi coinvolge molto. Più Susi, ad esempio. Susi anche adesso si sta molto più lanciando e cerca di fare regia anche cose che mi riguardano. Insomma, su di me ha detto ti faccio la regia. A lei piace di più, c'è anche questa visione anche un po' più anche estetica. Io tutta sta roba non ce l'ho. A me mi fa vedere un attore vestito in un modo o in un altro, ma sì, va bene uguale, sì, ma veramente è un film dell'Ottocento, capito? Ma se è vestito western è sbagliato. Non te ne frega niente. Allora ci ascoltiamo invece un momento, visto che è con tua moglie, con Susi Laude. Sì, Laude. Laude, lei è del nord, bresciana, lei. Sì, sì, bresciana. Bresciana. Dove sì, siete incontrati? Una fiction, La scelta di Laura, facciamo marito e moglie. È vero questa. Noi ci ascoltiamo un momento di marito e moglie, che poi diventeranno marito e moglie. Esatto. E faranno dei figli. Vabbè, questa è un'altra storia. Sentiamolo un momento. In 2 anni non hai mai pronunciato il suo nome una volta. Come se lui non fosse mai esistito. Non mi accompagni mai sulla sua tomba. Ogni volta che cerco di parlarne tu cambi argomento. Ti prego, io lo so che stai male come sto male io. Ma io non ce la faccio più a sopportare questo silenzio. Ho bisogno di parlare di quello che è successo. Ho bisogno di parlare di lui. Non ce la faccio da sola. Quello che ho scritto quelle stupide lettere. Perdonami, Dino. Perdonami, io ho sbagliato. Perché abbiamo chiamato a Brescia a fare ospite in questa puntata quando c'era quella signora attrice dall'altra parte? Straordinario. Infatti avevamo, insomma, in questa fiction... Ti sei innamorato qui, in questa un scena. Rapporto, no, ma poi un rapporto complicatissimo. In questa fiction ci siamo separati, perdiamo un figlio, è una roba di una tragedia. Però che quindi... bella, Galeotta, esatto, fu la serie e chi la scrisse. Esatto. Bellissimo. E allora io ringrazio tantissimo Dino a Brescia e la sua compagna Susi. E ora il traffico. Torniamo tra pochissimo.